ci sono. Allora, vediamo un pochino se sto andando bene, mi dice anche il segnale, se è uguale, oppure se, se è salito un pelino, anziché la 20 o 25 o qualcosa del genere, ok? Allora, la differenza di ieri è 9,20 pieno. Pieno, adesso aspetta che però guardo se hai combinato qualcosa come, come spettro. E quindi non ho aumentato niente, 9,20 mi hai dato ieri e 9,20 mi tirano oggi. Cioè prima era 10 watt, modulati 20, adesso sono 40 watt pieni, sono 20 watt in più. Sì, si vede che la radio è molto aumentata di banda, però parla un po'. Cos'è, troppo forte la radio? L'ho abbassata di un attacco, no? Di meno non posso abbassare. Aumentata di banda, cosa vuol dire? Non ho toccato niente io già a fare, sono andato solo a farmi quella regolazione che ti avevo letto. Sì. No, mi interessava vedere se c'era qualche pulsino in alto o in basso, no, non ce ne sono, meno male. La radio è buona, ovviamente, è potente, ovviamente si sentono molto le voci anche di sotto. Sì, no, questa è un po'... non è molto generosa come segnali, però se 9,20 fisso, mentre ieri salivi a 9,20 con la modulazione, capito? Ah, ecco, quindi quei 20 watt in più che gli avatto, come la mano, corrispondono al vero. Va bene, va bene. Allora, lasciamo tutto così. La radio è perfetta, quindi non è satura, non è chiara, bella, va bene, mi interessa quello a me. Sì, mi sembra la tua, la solita. Da portante, tieni la portante e poi fai un bel fischio, vediamo un po', senza esagerare. Dei piccoli picchi qua positivi, quindi direi che va bene. È lampa di tutto, sparviero peribella. Poi Natalino patacini corti col baccolino. Puro duro sai. No, perché ti ho visto. Ciao Natalino, no, stavo facendo ieri, stavo il patello, non riuscivo a trovare il manuale che mi sono fatto di queste radio, non riuscivo a trovare la resistenza variabile per darle 20 watt in più perché il tecnico me li ha tutti abbassati e quindi adesso l'ho portata a 40 watt come la manuale, 80 in FM e 80 in SSB, capite? Poi c'erano solo 20 watt, quindi stavo chiedendo a Gianfranco se era tutto a posto. Da te tutto a posto? Sì, va benissimo, dai. Va benissimo, è il fatto che quando l'ha posto mano Guido, ha posto tutto come in serie originale e ha toccato tutto. Mancato, non lo potevo anche dire, mi sono spaventato, mi ho messo il carriere al massimo per provarla, quando l'ho accesa e non l'avevo fatta, di tu esagio combinato. Ho attaccato il watt, ma trovo che aveva 20 watt, capito? E allora me la sono rimessa com'era, come deve andare, 40 watt. KK, segnale già buono anche il tuo, quindi non ho toccato nulla, solo ho fatto una piccola regolazione. Avanti Gianfranco, mia Natalino, mi piace. Natalino, e allora, come va il sistema operativo? Tutto ok. Allora adesso ti mando qualche virus a vedere se ti funziona l'antivirus. E tu te lo ricordi, Clario, a Linux lo sai chi era l'amichetto di Charlie Brown, quello che c'era sempre quella coperta e erano sempre insieme con la ragazza Mafalda, te lo ricordi? Certo, me lo ricordo, la grande me lo ricordo. Erano tutti ragazzini all'epoca. Noi ci accontentavamo di quello, vedi? Adesso invece se non c'è il cellulare da 500 euro sei un barbone. E io sono barbone e me ne vanto. Ecco. Anch'io, il mio ne costa 163, credo, forse anche di meno. Ed è a prova di proiettili, una mattonella, se la tiro in testa a qualcuno le faccio male. Ecco, allora me lo compro uguale al tuo e il mio lo butto via, perché mi sembra che costi 1000 lire in più, boh. Anche adesso è anche impermeabile, se non ricordo male, non ho fatto la prova perché non mi interessa andare sott'acqua al telefono, però se ti guardi il modello, si chiama Bisonte, che dice tutto. Bisonte. Figura. E a chi scemo sono a comprarmi un cellulare che costa 500 euro? Oh! Già c'è gente che se li compra anche più cari, 1500. Di Bissini col babbo ricco. Vero, Claudio? Allora, invece di bisogno, capisci? E allora, quando ero giovane sì che ce l'avevo il telefono a Viru. A Vero, però, mi... C'avevo il... come cavolo si chiama? Ah, quello della Motorola, l'Elite, quello fino, e c'ero anche nella Giulietta il kit Viva Voce, mi pare quasi 2 milioni, mi sembra che quasi l'avevo pagato, 1600 di rotti. Me l'avevo fatto piazzare da coso, da quello che c'era sotto Alessio, il kit Viva Voce. Ah, per la scarpa. Sì, quando c'era scarpa. Grazie a quello era bello il telefono. E anche io l'ho preso la scarpa, quando era una piazzetta. Però l'ho completo di tutto, c'era anche il coso che fa voce. E c'era una voce, un'amplificazione tremenda. Ed era il microtac, no? Quello che si apriva, c'era la sua voce, lo dovevi tenere, credo, sportellino aperto a nominamento. Poi tutta quella roba, tutta buttata via, perché era a 400, no? Quindi ascoltavano tutti. L'Elite era, quello ce l'aveva, lo sai chi, quello uguale ce l'aveva il padrone del bar di Città Mercato, del primo bar. C'era lì e ce l'aveva il padrone di quel bar lì, che era mio cliente tra l'altro. Come si chiama quello? Massimo, non mi ricordo, non ho capito però qual era. E vabbè, allora si poteva fare, ma non si può fare più nulla. Quello che c'avevo io era il microtac Elite. Io l'ho regalato la mano in Baggiandò Silvestro, perlomeno Donatella, la moglie, la mano in Baggiandò Silvestro, lo StarTac, quello con l'antennina, e due batterie, di quelle rinforzate, di quelle un po' più grandi. Ma comunque bisogna, piacerò male, però ti faccio un regalo, te lo regalo, te lo tiri tu, capite? Si è malato, non l'ha manco idratato, l'avevo usato, ma ti dico che per ricevere una cannonata era veramente ad hoc. Sì, infatti. Sì, lo Sasaki ce l'ho avuto anch'io, ce l'ho avuto l'8007, che mi ha già avuto dopo di chiudere. Beh, fatti i soldi buttati. Sì, per l'epoca era così. Tu fidati che a me, quando sono rientrato nel molo, mi è caduto dentro la barca e dove c'era proprio il pozzetto. Poi è arrivato il furbone, no, con la pistola all'aria calda, e si è messo lì, ha sciolto tutti i circuiti dentro. Mi ha cavato la batteria, ma ormai non è esplosa, per carità. A te, io stavo pescando sul molo lì e ce l'avevo nel taschino, come mi sono piegato me ne è caduto il telefono nuovo in acqua. Te l'ha lasciato lì ovviamente. E andavo a 18 metri a pigliarmi. Chissà quanti pesci hanno telefonato poi. Tanto c'era delicato fare una telefonata, ogni volta che premevi il tasto sentivi la monetina scendere, ti, toccare da nulla era. Riprendi, te lo ricordi quanto costavano le telefonate? Asciuga, mamma mia, avevamo certi abbonamenti da paura, veramente da paura, era una cosa paura. perché era un lusso allora. È logico che roba di... a bolletta io ce l'avevo il primo l'ha avuto a bolletta. Tutti eravamo così, ogni bolletta pagava mamma. A me mamma non me ne è pagata, me lo dovevo pagare io. No vabbè, io ero a casa di mamma e sono lì, portavo a casa e le mie cose me le pagava mamma. Bolletta del telefono, la circolazione della macchina, la circolazione della moto, non ce n'era problemi. E allora, oh yeah, yeah. Riprendi Gianfranco un attimo con il panino che metto a posto nel salone, che a girare ad un casino dietro che stavo cucinando. Vabbè, all'epoca era un lusso sì, ma e poi 3.000 persone attaccate allo scanner, all'epoca. Ui. Vabbè, adesso invece per ascoltarli ci vuole un attrezzo che non vendono neanche, vendono solo a chi è autorizzato a averlo. È una valigetta che si aggancia alla cella e si interpone tra il cellulare e la cella e ascolta tutto quanto, SMS, navigazione internet, tutto quanto. Ed è così. Io già lo so. Io avevo 4-5 frequenze diverse accese a casa. Una notte abbiamo sentito uno che non ha chiuso il telefono bene, no? E si è sentito tutto. Carissimo, vai a ascoltare di là. Io ho sentito questo l'inimmaginabile all'epoca. Come si fidava quanta gente che c'era ignorante in materia, proprio non si rendeva conto che erano in analogico ed erano in chiaro proprio. Non è possibile, guarda, mi fa incredibile. Quello lì, mi, guarda che fitta adesso mio marito. Allora salgo, sali, tanto sta andando al lavoro, sali. Ma sai quanto in nera, Natali? Quello che ti stavo dicendo io adesso, era in macchina, e deve essere premuto male il tasto per chiudere, e è rimasta aperta la comunicazione. E allora di lì non era tanto quello che ha fatto a costarle caro, era la bolletta che ti arrivida, se ti facevi un errore del genere guai, io lo controllavo sempre perché ci metteva poco a salire alle 100.000 lire dell'epoca, ci giocava un altro telefono. Oi, erano oggetti anche pericolosi, bisognava stare attenti. Perché se ti scattavano gli scatti erano, non mi ricordo se ogni minuto, una cosa, neanche il satellitare era così, per carità, non potevi usare, perché io sto arrivando, ciao, chiudo tu. Se mi capitava come mia moglie sta 2 ore al telefono, mamma mia. Sì, oramai è inimmaginabile, adesso è tutto gratis, paghi solo un piccolo canone per fare quello che vuoi. Io ho Iliad ad esempio, navigazione a go-go, non la consumo mai perché sono 50 giga, telefonate anche di 2 ore finché si scarica il telefono praticamente, quindi no, ma costo 0, paghi quella cifra ogni mese e sei a posto. E io sono dovuto tornare alla Vodafone perché l'Iliad qua ce l'avevo ma non prendeva qua. Fuori come si vede al portone prendeva, qua dentro nulla. Noi con Vodafone, una manica di ladri veramente, non sento altro che gente che si lamenta. E tra l'altro Iliad è anche più, imbatte anche di più come cose. Guarda, io sto girando anche ieri, ero a San Leonardo, a Bade Urba, cioè ieri, l'altra settimana a Bade Urba, in tutte quelle zone disgraziate, eccetera. E copertura totale, senza, perché quando va fuori copertura mi avverte, invece tutto ma anche a Cagliari, l'ho provato a Cagliari, in tutte quelle zone, sempre online. Eppure il vapore, cioè va Iliad lo stesso, se l'ha cambiato, torna perché non pigliava, lo era libero. Ma lo so dire. Andiamo. Dipende anche dal telefono, se è sensibile o se pure una ciofeca. Dipende da tanti fattori. Tieni presente che sono frequenze sempre altissime, quindi ti sposti 10 metri funziona. Tra i due comunque la copertura oramai Iliad le fa pelo contro pelo, perché anche l'anno scorso in piena pandemia, anche adesso stanno piazzando i ripetitori a 5G e quindi stanno implementando ulteriormente la copertura. Mentre Vodafone mi pare che con tutte le truffe che ha fatto e con tutte le denunce che c'ha il garante sta pagando solo multe. Sì, mi sa che stanno anche abbandonando. Perché boh, anche loro stanno a farci posto di tutti i rapporti. Boh. Ma. Ciao Luca! Attali no, un comane! Ne va Attali! A Taburuduru sai! Andiamo e andiamo! Siete! Pure tu lo sai, Luca! E Lu! Buonasera, buonasera! Io sono andato qua in cameretta a vedere se c'era un po' d'aria fresca, oggi no, eh. Ieri si stava bene, oggi nuda, manco un filo d'aria. Bene, no, caro lui, c'è lui con la maglietta. Ciao, Cla. Vabbè. La maglietta, sì, è per il zoma. Io oggi sono andato a fare la pulizia dei denti, castemoni martoriato, dalle 2, ma non 4 fino alle 3. Tengo un telefono, portare a Filippo a fare la pulizia dei denti, a mettere i denti, figurati. Grazie a Dio Presidente, non problemi. No, qua c'è fresco, veramente non sto scherzando. In veranda mi sono dovuto mettere la maglietta, sono uscito a petto nudo e c'è fresco. Ascolta, ho fatto qualche modifica qua. Segnale buono, radio buona? Allora, segnale buono, sei sul più, la radio è troppo forte. La radio è troppo forte, sono morite. Guarda Lucaria, è così che l'ho abbassata di una tacca. Mi fa passaggio? Guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, se va bene così. Oh, non è che si è cambiato niente. Ce l'ho neanche a 2. Troppo forte, troppo forte. Mettiamola così. A 1,5 come il 4,40. Va bene così. Forse la timbrica tua che lo fa spingere. Non lo so, confermate se va bene. Per me va bene, però forse è la tua voce che la fa pompare. 1,5 ce l'ho, lungo, faccelo per 2, se ce l'ho 1,5. No, ma il segnale, siccome gli ho dato un pochino più di watt, il segnale è sempre uguale o hai noti qualche differenza? Ti ho detto sei sul più, di solito mi arrivi 9,10 qua, 9,15, sei sul più. Sì, allora ho aumentato, già va bene. No, perché non avevo abbassato il potenza, l'ho portato come ce l'avevo prima, capito? Va bene. Natali, la radio per te va bene? Benissimo, va. Tu l'amplificatore ce l'hai in gola. Anche un microfono normale tu lo fai pompare, come ero io, ugualmente. Oh, scusate un attimo, arrivo subito. No, vabbè, ma se era troppo alto ditemelo, ora ce l'avevo a 2, l'ho messo neanche a 1,5. Comunque penso che vada bene lo stesso così, dai. Avanti Gianfra. Sì, Claudio, mi devo un attimo allontanare per chiedere se domani si parte o no. Nel frattempo ti mando un attimo là, la portante di là, per sapere se quando premo il pulsante si sentono i tuoni. Che hai sentito? In questo non lo so, prova a vedere, manda la portante, manda la giacca. No, nel mio no, si vede la portante, ma il tuo no. Ah, ok, quindi è questo che te la segnala, che è questa. Vabbè, quindi perché sono diversi gli apparati, capite? Come ti ho fatto la prova anche poco fa. Comunque sul ripetitore normale dovrebbe passare quello, me l'auguro. sì, penso di sì, penso di sì, va bene, però con te hai visto seduto all'interno con l'antenna di gomma, funziona, funziona. Sì, che importante Gianfranco, dai, fa così, mi fai sapere se poi domani ci vediamo. Infatti questi controlli io già sono qua. Sì, ritorno fra poco. Ehi. Va bene. Ehi, Natali. Condizionata, non mi fricava. L'anno scorso me l'hanno caricata, però non anda. Ma chi te l'ha fatto? Uno di Viale Porta Torre se me l'ha fatta. Ma bisogna stare attenti, Natali. Allora noi quando facciamo, soprattutto non sono macchine vecchie, mettiamo sempre il tracciante, in modo che se c'è qualche microfilita riusciamo a individuarla. Non ti hanno messo niente? Non lo so, no. Io già ero davanti, ma non lo so su cosa hanno fatto loro. Cioè davanti. La nevata e poi me l'ho portata via. Già funzionava quando me l'hanno data, ma boh, chissà cosa è successo. Vabbè, se sono microcredite, piano piano nell'arco di 4-5 mesi piano piano perdono. Veramente quelli che ho tracciato, e poi c'è una lampada speciale con degli occhiali e vedi se c'è questa microperdita, se riesci a adivinarla, se no te ne dita. E poi bisogna lavare il coso, il condensatore, il radiatore, molti non lo lavano, si forma dell'umidità, non riesce a dissipare l'umidità, polvere, non riesce a dissipare il calore, per cui non raffredda bene. Molte volte basta dare una bella passata di pompa a pressione, il condensatore tanto la parte esterna davanti, dietro i paraurti, e migliora. Ma che ne so? Cosa ne so qui? Ma una volta te l'avevo fatta io tanti anni fa, possibile? Sì che è possibile, funzionava sempre bene. Però quando sono impianti così vecchi è sempre bene mettere quel liquido che ti sto dicendo io. Poi se sono microperdite o si mette il coso, il turafalle, se no ogni anno si spende quei soldi lì. C'è gente che da me ogni anno si spende i soldi per non mettere il turafalle, però sono quelle microperdite e se lo tiene così dice ci butto. Se no se devi cercarla e magari c'è un tubo, un piccolo coso, molte volte non conviene, è meglio buttarci 100, 150 euro. 130 euro costa la ricarica, però ricarica vuoto, con l'olio vecchio, mettere l'olio nuovo, eccetera, eccetera, perché mi dice che ti aggiunge solo gas e poi fasci tutto. No, hanno fatto tutto come avevi fatto tu, mi hanno messo l'olio, mi hanno fatto il vuoto, tutto fatto a regola d'arte, solo che boh. Ho un radiatore che non anda e non ruba di bacchino il compressore, cosa vuoi ti dica? Allora, se c'è poco gas, c'è una protezione nell'impianto, non ti permette di farlo funzionare, perché deve avere quelle pressioni stabilite, si accende a quella pressione stabilita. Ma non te l'ho chiesto per curiosità, Natalia, l'anno scorso? Non me lo ricordo, 50-60 euro avevo pagato, uno di Viale Portatore, esemi, me l'aveva fatto, che l'ho portato a aggiustare normalmente cosa. Ma adesso l'anno scorso comunque... 50-60 euro per fare una ricarica, secondo me ti hanno aggiunto il gas del buono, non vi credo. No, il Rudananzi mi ha fatto il vuoto e tutto mi ha fatto. E c'ha il macchinario come quello che c'hai tu. A me sembra troppo poco, Natali, secondo me, cioè non è neanche tutte le spese questo, non sono dopo il gas, tu non hai idea, una bomba di gas, ti metti la mano in testa e si è triplicato nell'arco di un anno, triplicato, mi prima pagare il di 100 euro, una bomba la paghi 300 euro. Io la faccio. Dicendo, è una cosa spaventosa perché stanno cercando di convincere di eliminarlo col gas, infatti sulle macchine nuova generazione non lo usano più il 134 ed è molto meglio del gas nuovo dell'123Y, quello che usano nuove perché quello è infiammabile, stanno trovando la scusa dell'ozono, che c'è il buco dell'ozono e sono macchine, però non si rendono conto che l'impianto rende di meno ed è pericoloso perché è infiammabile, ti piglia con la macchina, se per dire ti smatti davanti, ti tranci un tubo, cade sulla marmitta e piglia poco la macchina. No. Guarda, stanno inventando di tutti i colori, pur di cacchio, è come i telefonini, ogni anno ne esce un nuovo coso, cambiano sistemi, applicazioni, alla fine dopo due anni si deve buttare, se no ti si blocca. E infatti mi ricordo che mi avevi preso anche tu quel tanto lì che mi ha preso quello di Viale Forza Torres, infatti stava a dire a Roberto che... No, o magari non mi parte perché, boh, non lo so, magari c'è passata umidità, che ne so, come stavi dicendo tu, e non permette al compressore di partire, boh. Oh, c'è da dire, adesso ne stanno facendo tanti, e quando si usa poco, soprattutto la gente non lo usa d'inverno, tutti lo usano solo d'estate, e il compressore si blocca, perché c'è le microsfere, i cuscinetti, e se tu non lo fai funzionare, questo olio che c'è dentro si condensa, per cui non lubrifica bene, gli dai lo spunto iniziale, tac e spacchi, così la gente stiamo vedendo così fatti, deve sempre farlo funzionare sempre, e poi ogni anno fare il controllo, svuotare l'impianto, fare il vuoto, deumidificarlo, cambiare olio, mettere l'olio nuovo e gas nuovo, invece un bidigliente in biglia e aggiunge solo gas senza fare niente, e poi succedono i problemi. Io l'avevo fatto ricaricare proprio per quello, invece non passa il compressore, poi non lo sento, prima rimaneva acceso, quando spegnevo la macchina sentivo il compressore e poi si spegneva, capito? Ma non intendi. Quella che sentivi era la ventola di coso, si è partita la ventola del raffreddamento, la retroventola. Però se c'è poco gas, bisogna verificare se c'è gas, magari quando ti capita passa vediamo se c'è poco gas, e magari per quello diamo un controllo, vediamo, perché quando c'è poco gas l'impianto entra in protezione, non ti si attacca. Basta per avere le dose, ci sono delle tolleranze, per dire, appunto adesso non so se c'è 650 grammi, per dire se ne hai 300 non ce la fa a partire, per cui rimane in stand by. In cosa? Però 60 euro ti hanno fatto un regalo Natalino, perché non è molto con le spese secondo me. No, l'anno scorso me l'hanno fatto, vuol dire l'anno scorso il gas costava di meno, adesso ha aumentato, giustamente se vado adesso me lo fa pagare di più, già lo so, adesso che mi sta dicendo così. Ma il gas me l'ha messo, gli dice la macchina e quanti grammi ce ne vogliono di gas e tutto, e c'ha la macchina come quella che c'hai tu. Ne aveva approfittato perché mi stavano aggiustando qualcosa, adesso non me lo ricordo cosa ho fatto aggiustare. In via Le Portatore, che vende anche macchine, no, sta l'officina, sta. E me l'hanno caricato lì, me l'hanno caricata. Che stavo del successo? Vabbè, vediamo se è rientrato Gianfranco. Avanti Gianfranco. Non so neanche se sto uscendo, perché ho cambiato radio, ce le ho tutte che sto mettendo ordine, devo tappare un buco. Riprendete voi. Io, va bene. C'è qualche altro Natale su questo canale? C'era Luca, Claudio, io. Claudio forse si è allontanato, vabbè dai, continuiamo a parlare lui. L'impianto molte volte succede così, la casa ti dice sempre una volta all'anno cambiare, di fare questo lavoro qua, solo che addirittura ti dicono a cambiare il filtro essiccatore, non ne cambia mai nessuno, quelli cacchio teoricamente vuole cambiare ogni anno, però non lo cambia mai nessuno, ti durano 10 anni le stesse cose, rimane sempre il filtro essiccatore. Poi non parliamo del filtro antipulline, c'è gente che cacchio si crea delle allergie allucinanti perché non si è mai cambiato il filtro antipulline, proprio non sa neanche che ce l'ha nella macchina. Infatti io lo cambio sempre. Gli ho fatto la messa a punto da poco, addirittura, alla macchina, tutti i filtri, ho cambiato l'olio, tutto quanto. Poi poco fa ho ritirato la macchina mia, c'era un rumorino che non mi piaceva, pensavo fosse la puleggia del volano, ho detto cazzo di nuovo, siccome l'ho cambiata 2 anni fa, ho detto ma possibile che ci sia sfasciata, invece era la puleggia dell'alternatore, però un lavoraccio sostituirla, un travaglio, mamma mia. Comunque tutto risolto, meno male, non ho tolto un peso dallo stomaco. E se credi, quando comincia ad andarti male la macchina ti si rompono le scatole, già lo so. No, ma grazie a Dio, io ho 318.000 km, non ho mai fatto roba importante, non ne ho mai fatto le manutenzioni ordinarie e basta. L'unica cosa, il problema della macchina sono le sospensioni, i braccetti, si rifrasa facilmente, le biellette, non ha una sospensione anteriore sovradimensionata, è molto delicata. Infatti l'unico problema è che il motore è eterno, cacchio, non gli ho mai fatto niente. Cioè le solite manutenzioni, le fesserie, mi filtro aria, filtro olio, quelle cose lì sì, e basta, ho fatto un iniettore tempo fa perché stava soffiando, ma niente di importante, la pompa è rimasta quella lì e basta. Quindi quei motori sono indistruttibili. Allora sai che se io me la prendo la macchina, chi la prende fa un affare. Allora sai quanti chilometri va la macchina mia? Con tutti gli anni che ami, perché non la stavo usando, 146.000 km c'è la macchina mia. Giulia ne ha ben pochi, no, ne ho preso una, anzi me l'hanno regalata, c'era uno che stava rottamando, guarda la tua però tre porte, una appunto, da tre porte, e proprio con nuova, 105.000 km, unico proprietario, sempre manutenzionata, perfetta di tutto, era solo un po' sporca fuori perché era sotto gli alberi, era tutta bene di quel cacchio di resina, c'era un po' di ruggine sulla cappotta, l'ho sistemata e gli ho data mia figlia, e la carina era nella lampada, era parcheggiata, gli hanno fatto un bel colpo, vabbè, gli ho detto con quei soldi, o aggiungi i soldi e ce ne prendiamo un'altra, te ne prendi un'altra. Cazzo, così grande tua figlia è? Cazzo, l'ho conosciuta da bambina e non era patente, ma dimmi tu. Io ne ho due, una ne ha fatto 19 a dicembre, l'altra ne ha 24 a maggio di figlia, quella grande che ce l'ha patente, la piccola se la voleva prendere pure è passata la gara, poi ci baetta. Cazzo, come passa il tempo, che l'ho conosciuta piccolina, l'ho conosciuta. No, lo so pure, anche quella piccola, che era piccola, se la vedi adesso non la riconosci, in giro di 2-3 anni un'altra persona sembra, infatti molta gente dice, cazzo, la te ricordi tu, non dico col ciuccetto, no, però quando ne avevi 14-15 anni, poi quando la vedi 18-19 anni, sembra un'altra persona, sviluppata in tutto, poi anche fisicamente. E le donne cambiano così, già lo sai, il tempo che è passato, ma dimmi tu. Ma pare così, Natale, noi ci conosciamo da un po' di annetti, dimmi. Ah, vabbè, tuo fratello io l'ho conosciuto molto prima di te, non l'ho più visto, però l'ho conosciuto molto prima di te, tantissimi anni fa. E a te ti ho conosciuto nel 2005, come in radio, stiamo parlando 16 anni che ci conosciamo. Ehi, ridendo e scherzando, se io andavo al campo della Biglia a vedere a mio fratello, a mio cugino, che è piccina, io non credo che lo conosci a mio fratello, chissà quanti anni. Chi è tuo cugino? Mio cugino è Natalino, si chiama come me, Natalino Milis, giocava con Angelo in prima categoria. Certo, Natalino può salire, è andato anche col Cagliari, lui con la Juventus ha fatto il problema, Natalino certo, tutti i giocatori che sono passati da noi, certo ha giocato in C2, lui è andato con la Juventus, ha fatto il provino con la Juventus, Natalino molto forte, purtroppo ha avuto problemi di salute, sono un po' che non lo vedo, tanti anni, mi sembra sia a Cagliari così. Ehi, è sposato a Cagliari e penso non è mio cugino, stesso, il fratello di Natalino, cugino. Cugino al primo grado, certo. Eia, sei il padre addirittura, è mio padrino di cresima. Ma perché si trova ancora il padre? Eia, è anziano, un bel, però gli assacciata. Ma sai che non lo sapevo, pensavo fosse morto, ma c'ha avrà più di 90 anni quell'uomo. Ehi, se te lo sto dicendo. Però si faceva 6 km al giorno, mi si faceva. Medarzillo era sempre. Non ricordo bene, ma tutta la famiglia conosco, anche l'altro più piccolino, Giuseppe, l'hanno anche allenato, il fratello piccolo di Cento e di Coso. Ma la mamma era morta, mi sembra, no? E la mamma ha avuto un brutto male, è morta un sacco di tempo fa. È il fratello di Babbo, il padre di Natalino, della buona anima di mio padre. Infatti è morto prima mio padre, vedi? Ma che lavoro faceva? Oggi era muratore, qualcosa del genere? Assistente contrario al comune era. Ma ecco, era un po' gudduso, ma con mio padre aveva avuto delle belle discussioni a riguardo del figlio, ma che cose, non dico rimane, ma ci sono andati abbastanza vicino, perché era un po' gudirioso il padre, vediamo, lo ricordo, una persona molto tosta. Adesso vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, se no riprendi tu Natalia, avanti che vuole entrare. Sì, buonasera. Via Giulio, vabbè giù. Ciao, vabbè, ciao Natalia, qua sono. E voi siete lì. Giulio, adesso parlando di cosa, quanti anni ci sei tu all'Ipurgo? Dal 1900, ci sono 50 anni circa, là. Quindi li hai conosciuti Caberruio Meris? Caberruio Meris, non me lo ricordo. No, ma io guarda, qui gente delle punti io non le conosco, conosco qualcuno così, proprio quello del vicinato, ma niente di più. Non ci sono mai stato, non ho mai frequentato la verità. Primo perché lavoravo, secondo adesso non esco quasi mai da qui, per cui non lo so. No, no, ma visto che tu seguivi la squadra, non facciamo nomi, con la squadra vicino a te, e ci venivi, hanno giocato da noi, il fratello di Natalino ha giocato da noi, i cugini erano fortissimi, erano furti, poi anche con la Juventus, Natalino, certo ha giocato in Serie C col Sorso, lo stesso grande giocatore. Non lo so, direi se conosco io un falegname qui a dei punti, che aveva la falegnameria qui, poi non lo so se è quello, ma non credo però. No, no, non c'entrano niente. Ok, vediamo se Gianfranco è entrato, se no prendi tu Natalia. Nulla, vai Gianfranco. Ehi, scusa, vai Natalia. Natalia, ti chiede lo zorro. Mi ha suonato mia moglie e sono dovuto andare a aprire. Ma io ho conosciuto anche un certo Giovannino che era tosto più di mio zio. Non ho capito, Giovannino chi? Un tecio Giovannino, mica faceva il carrozziere. No, siccome ce n'era un altro a società con quel cognome, con quel nome lì, no, già lo so, prego. Ma poi dopo eravamo capitolato a tuo fratello, lo sai perché? Perché chi ci veniva a Giulio, lo sai cosa faceva? Questo andava, era pasticcere, molto bravo, ma ricordo che fosse adesso poi con i baffi, giovane con i baffi longhi era. Andava a lavorare la mattina, poi veniva subito la partita alle 11, giocavamo alle 11 di domenica, lui e poi torna a travagliare. Che vuol dire che doveva lavorare, per cui tu hai conosciuto un Giovanni da carrozziere, io faccio pure giocare a pallone con un Giovanni da carrozziere, Natali, sicché lo conosci più di te. Io lo conosco pure io, a Ghisu, e Ghisu era mezzo addosso, mezzo era addosso, ma è pure, non si fa di abbonare di da nessuno, non ti preoccupare. Ehi, fanno come dice a me, che lo so qui, anche se lui è diversi anni più grande di me, però vabbè, io ero ragazzino, lui era già un giovanotto grande, per cui comunque ci conosciamo una vita. Va bene, andate, va bene. Io penso che tu lo conosci da un saccaccio di anni, da quanti anni lo conosci tu? Io come minimo lo conosco a 60 anni, anche di più. Di più di 60 anni. Tu di che zona eri giù? Non ho capito, Robe. Di che zona eri? Lui era vicino a cosa? A Culleggio, diciamo, l'università, quella zona lì era. Lo so, io ero stato del vecchio, dove è stata Apollinare, quella zona lì abitavo. Ma io l'ho conosciuto a capo dei soldati, diciamo così, dai. Per cui ai tempi della vita di allora, dei vari cimeli, eccetera, eccetera, no? Lo so, dai. Quindi io pensavo di meno, quindi lo conosci che di ragazzino proprio a lui l'hai conosciuto. Vabbè, poi la colonia 9 maggio, non ne parliamo. Esatto, la colonia 9 maggio, allora. Certo che sì, a quei tempi si giocava al calcio, veramente. No, come te li bisciti che giocano oggi, no? Che mi fanno pena, quando li vedo giocare mi fanno pena. Ecco, povera gioventù bruciata, ragazzi. Allora si giocava veramente al calcio, ma come si deve? No, non come giocano oggi, no? Queste ragazze di oggi, ma che ne dai, adesso, il livello tecnico è scalato, cioè per vedere una prima categoria devi andare minimo in Serie D, ma prima categoria parliamo degli anni 70 e degli anni 80, i giocatori dell'epoca. Tu vedrai, i ragazzi di adesso sono dei fisicamente impressionanti, alti, potenti, ma tecnicamente è zero, non c'è niente. Quando vedi certi giocatori giocare quando ero ragazzino io, rimani a bocca a bici, vabbè, li vedi giocare, vedi un campionato di promozione e ti metti le mani in testa, dice, ma dove ne sono usciti qui? Ma nemmeno le panchine avrebbero fatto in prima categoria 30 anni fa quelli che per dire sono bravi adesso. Ma per carità, oggi tu li vedi giocando e sembra che si stia raddoppando col pallone, ma non è possibile. Prima si giocava come si deve, ai tempi di Zolo, Vito Casu, Manunta, Busia, tutta questa gente. Io ho giocato in quel periodo lì. Eppure avevamo anche la torre, tra l'altro. Soprattutto questi imbecilli di Bisiacchi, ma mi ha potuto fare la ribiglia a Malleo, mi ha fatto stare una volta mezz'ora coricato per terra. E infatti l'allenatore l'ha chiamato e l'ha mandato agli spogliatori. Vai, sono quel ragazzino, dice io, un ragazzino, no? Ha detto, quel ragazzino che ti sta facendo un favore, dice, viene qua ad allenarsi a te, tu sei il professionista, lui è un ragazzino, hai capito? Perché? Perché gli abbiamo fatto due volte consecutivamente il tunnel all'insufficienza dei bisiacchi, un armadio era. Non so, mi era capitato, tu Gesù lo pilota, lo ricordi? Il nostro giocatore, l'attaccante, il Fabbro. Certo che me lo ricordo, ciao qua, va. Gesù non era un bastione. Ciao, buonasera. Ascolta, sono riuscito a fare quel lavoro al K. 9-10, segnale c'è adesso? Sì, pieno. 9-10 pieno. Perfetto, volevo sapere solo quello. Continuate che sto facendo cosa. Vai Roberto, Gesuino era un grandissimo giocatore. Grandissimo. Io ho visto giocare con l'aereo, mi sono spaventato. Sì, è nato da noi, fratello di Ia. Io mi giacevo l'altro giorno da me in officina, c'era un centravanti, dico, quello lì era, che io dico un episodio giù, in rappresentativa sarda, nazionale sarda si chiamava, sempre titolare, non mancava mai, hanno fatto una partita con la Fiorentina, Serie A Fiorentina, che all'epoca la Fiorentina pochi anni prima aveva vinto lo scudetto, e c'era questo stop centrale, una montagna, una volta nella natura, gli ha fatto due volte il tunnel, te l'ha bisseguito a Gesù, ha detto non ti permette, ragazzi non gioca, non lo fare più se non ti spezzo le gambe, mi stai facendo fare brutte figure, gara. E chi per essere a me? Sì, ma è così, sto dicendo, praticamente, in poche parole, il discorso era questo. Siamo andati ad allenare la torre se nella partita infrasettimanale, no? Siamo andati. A un certo momento mi trovo tu per tu Bisiacchi, lui era un difensore, un terzino di con la T maiuscola, la verità, era un grandissimo giocatore. Beh, prendo e le faccio il tunnel. A un certo momento attacchi arriva un altro amico, un altro compagno di squadra, che adesso non ricordo, forse era Colussi, non me lo ricordo. Comunque, faccio il tunnel anche a lui. Nel frattempo lui aveva la cerchiata, no? Dietro Colussi, e ho rifatto di nuovo il tunnel a lui. Ma la buccia ha fatto, mi ha visto che c'è rimasto male, c'è rimasto, e mi ha dato un calcione al malleolo e mi ha fatto coricare per terra, io ero tanto ragazzino, cosa avrò avuto 17-18 anni, forse anche di meno, lui era un uomo grande, poi un armadio, devo immaginare, l'ha chiamato l'allenatore, vieni qua, c'è quel ragazzino, dice, te ti sta facendo un favore, ti sta facendo, perché vieni qua ad allenare te, non ad allenare tu a lui, no, lui allena te, perché ti sta facendo allenare, la partita infrasettimanale, vai, che le spogliature, ha detto, vai, non ti permettere di più fare una cosa del genere, capito Roberto? Ok, vai Natali. E K. Stavamo rivangando i vecchi ricordi con Roberto. Io l'ho conosciuto il padre di Roberto. Cazzo sei la dosto, Ghissu. Allora, Giovannino l'ho conosciuto benissimo anch'io. E a quei tempi della vita, dopo vedere nei 60 anni fa, anche di più, forse anche 62, 63 anni, non lo so. Insomma, io ho cominciato a giocare al calcio, avrò avuto 14 anni, avrò avuto una cosa del genere, forse anche di meno. Ho giocato fino all'età di 22, 23 anni, poi mi sono infortunato al ginocchio e allora ho smesso. E allora ho cambiato sport, ho cambiato tutto lì, ma solo perché mi hanno convinto a cambiare sport, se no non l'avrei mai fatto, però forse per gratitudine, qualcosa del genere, perché chi mi ha contribuito a farmi guarire la gamba, ginocchio, era questo allenatore di questa società sportiva di atletica leggera e nel frattempo mi ha convinto a fare il pulista, a fare la marcia. E ho fatto la marcia, tutto lì, senza 43 anni. E figurati. E mio fratello Angelo giocava lì, giocava con signor Giovannino, infatti io quando l'ho visto da Roberto, era mi fa vedere cose, come anda d'accordissimo mi signor Giovannino. Mi conosce mio fratello che giocava lì. Cavolo. Ed era affezionato a mio fratello, a chi era come te, come bradito, non ha compreso, era imbecille. Perché nello sport bisogna essere come dire, che riusi, come diciamo io a Sassari, bisogna essere che riusi, perché se no non vai da nessuna parte. Per cui il discorso è quello. Magari uno può essere più tecnico di un altro, non ha importanza, cioè l'importanza c'era lo stesso, però se uno agonisticamente valido è importantissimo, forse più anche di essere tecnico, sicuramente. Però allora si giocava veramente al calcio, oggi si gioca a fare la delibera a fianchi, per non dire anche a testate, eccetera. Prima si giocava veramente al calcio, c'era spettacolo, c'era oggi il calcio è decaduto a tutti i livelli, sia dai ragazzini fino ai giocatori di grandi campioni professionisti. Tutto è decaduto in una maniera impressionante. Tutto questo perché? Perché ci sono troppi interessi, ci sono. Infatti già li vedi, questi giocatori anche di Serie A sono sempre per terra, sempre infortunati, sempre per carità. Una vagogna, vai Natali. Sì, l'allenatore rubigliava a botte a me Brazzidu, perché faceva si metteva a fare i salti mortali, ne faceva poco di cose. E dico, pagliaccio a chi ti mia che ci faceva mari, no? Se dagli allievi lo prendeva e lo faceva giocare in prima categoria, c'aveva anche a Gino Lanieri, il dottore, quello della farmacia, come preparatore lì. Il signor Ruglio rubigliava a botte, a chi mia ci faceva mari, perché durante l'intervallo della partita si metteva a fare salti mortali, gli anni basi a poco Angelo di gol. Mi già te lo può dire Roberto che lo conosceva bene. Sì, beh certo, ma era così, prima si giocava veramente al calcio. E ti dico di più, si giocava al calcio con senza di là, oggi invece è aspetta, ci sono i soldi, ci sono, però non c'è classe, non c'è tecnica, non c'è niente, c'è solo irruenza e basta. Accanimento, giocano più sull'uomo che sul pallone, fa caridare. E dunque così decade anche lo spettacolo. Purtroppo è così, ma a tutti i livelli, Natalia, a tutti i livelli, dai ragazzini, dagli esordienti fino ai grandissimi campioni, ai grandissimi fuori classe. Purtroppo oggi ci sono troppi interessi nel calcio soprattutto. Vabbè, dai. Andiamo a muovere, Roberto, al telefono, riprendi. E mio fratello e i miei cugini erano fortissimi giocando, erano bravissimi giocando a pallone, erano pure più bravi, mio Roberto gli ha tempo di riconoscia a tutti. Alla sorridinaghi patene andare mondo, caro Giulio. Prima sì che era sport, adesso no, adesso sono interessi e basta. Sono viziosi. E infatti è così, oggi sono i soldi che contano, non più lo sport oggi è viziato dai soldi, per carità, vergognoso, ha un po' tutti gli sport, vabbè ancora ci sono i punti, gli sport dilettantistici che guadagnano praticamente a livello di qualche premio e basta, niente di più. Però prima era proprio zero completo, non veniva di là. C'era qualche regalo così da parte della società che ti dava qualcosina, perché magari vedeva che ti impegnavi, eccetera. Però in realtà come soldi, stipendio, eccetera, oggi vedi tu in seconda categoria, in terza categoria anche gente che prende 700-800 euro di stipendio, 1000 euro, 2000 euro anche, c'è qualcuno che ne prende anche di più, per di più, e stiamo parlando appena di terza categoria, quando ancora non sanno nemmeno le regole del calcio, non solo di saber giocare, ma non sanno nemmeno le regole ancora, eppure gli danno questi soldi, li hanno viziati e li hanno in un certo senso anche rovinati, perché se avessero, probabilmente se li avessero trattati in un altro modo, ci sarebbe stato qualche campione in più, parlo perlomeno qui di Sassari o della Sardegna addirittura, ma comunque va bene così. Sono rientrato io giù. Ehi, ok, vabbè. Cosa ti volevo dire? Oggi non sanno i zuffri, i sovviziosi. Vabbè, c'erano i bagagli quando giocavo, mio prete giocava in prima categoria, ma manco le scarpe, per le scarpe, ma mio fratello lavorava. Usciva dal lavoro per andare a giocare, lo faceva andare, babbo, no? Cavolo. Mangia la brava vero mia, e mi cugini Roma a te, se te lo può dire Roberto, mica è rientrato Roberto giù. Sì, sì, l'ho sentito. Oh, c'era anche da dire questo, è andata lì. Anche Roberto lo dico. Non è come oggi, il giovane di oggi è più libero. Prima c'erano anche i genitori che si opponevano a tante cose. E uno di questi per dire è anche mio padre. Ma solo per cosa? Forse per troppa benevolenza che aveva dei figli. Se no io potevo giocare anche a CDC. Io avevo fatto dei provini con l'Urbia, con Montepuni, allora si chiamava Montepuni, oggi si chiama Montepuni Iglesias, poi con lo Schirese e con l'Alghero. Venivano addirittura al negozio dove io lavoravo, i dirigenti, allora lavoravo lì a Santa Maria, da Pino Mu, c'era Pino Mu allora, no? Facevo un altro lavoro, non facevo il falegname. E venivano lì, ma io ero fortunato in quel periodo, per cui non potevo nemmeno andare, avevo il ginocchio cantarugabo grande, con me, che poi tra l'altro mi avevano anche praticamente abbandonato la società, perché succedeva così, no? Tutti quasi in mare, la società non era in grado nemmeno di seguirti e vincolarti. Purtroppo è così, invece oggi sono tutti quanti ben curati, tutti quanti ben tenuti, ben pagati, eccetera, e la cosa va avanti così. Però campioni, me ne sono 6 bombi, un bel pombi. Prima c'erano i campioni, oggi ci sono solo le mezze calzette. Vai Roberto. Ma non sai dove nasce il problema, tu, vai giù. Dai tutto. Tu ancora di più di me, noi giocavamo in strada, si giocava in strada, in mezzo ai rigantoni, in mezzo alle pietre, tutti i ginocchi sbucciati, che ne ha conosciuto campi in sintetico, campi in erba, un pezzo di piattarone, giocavi due cantoni in terra e giocavi, tranquillo e ti divertivi. E adesso sono tutti ragazzi di appartamento, ma me ne accorgo dalla scuola a calcio, raramente vedi un talento proprio spontaneo, ma raro, su 1000 ne puoi trovare uno. Ai tempi nostri ancora, ripeto, ai tempi tu era ancora, chi ne ha mai avuto di scarpe di calcio di marca, adesso tutti scarpe che sembrano dei guanti, a parte che sono di plastica, non sono di cuoio, i palloni di prima erano tutti che come prima pesavano 1,5 kg, adesso sono tutti in sintetico, perfetti, una sfera, vedi, quando pioveva ti avevano un cantone in testa e ti rimaneva il segno della cucitura, le tutte, che non ne ha mai avuto di tutti i sociali, sacche, ognuno andava con la roba sua. Il massimo tirava la maglietta e il calzettone. Sì, infatti era così, tirava la maglietta e basta. Poi tu ti compravi tutto il resto, tutto ti dovevi comprare, a cominciare dal borsone per mettere l'attrezzatura sportiva, dalle scarpe, a tutto. Ma anche i pantaloncini, tirava la maglietta e basta, perché la maglietta era il colore della società dove militavi e per cui erano costretti ad altre cose. Cioè, nemmeno quello ti avrebbero dato. E si giocava allora come si deve, con cuore e soprattutto con onestà, perché non è, oggi invece giocano anche con troppa aggressività, e questa aggressività porta anche alla rissa in campo, già lo vediamo, rissa nel senso che tutti questi colpi che ti danno, sono i belli e poco di guardare dei bili di giocatori stesi per terra, ogni azione c'è sempre qualcuno per terra, non è possibile, dai, no, non è quello, no, lo calcio, io il calcio lo intendo in un altro modo. Vabbè, tu mi dirai, ma i tempi cambiano, certo che cambiano, ma hanno cambiato in peggio, molto in peggio, non poco, molto in peggio, Roberto. Sì, sì, confermo al 100%, ho detto, ma io me ne accorgo perché già lo sai io, già qualcuno già l'ho visto io, sono nato in mezzo al pallone. sto ancora continuando tutto quello che ha creato mio padre, e sai di cosa ti ho